50 domande su Gesù. Chi sono gli gnostici? Il nome di gnostico viene dalla parola greca gnosis, che significa conoscenza. Gnostico è pertanto colui che acquista una conoscenza speciale e vive secondo questa. Il termine gnosis non ha pertanto senso peggiorativo. Alcuni santi padri, come Clemente di Alessandria e Sant'Ireneo, parlano della gnosi nel senso della conoscenza di Gesù Cristo ottenuta dalla fede. La vera gnosi, scrive Sant'Ireneo, è la dottrina degli apostoli. Il termine gnostico acquistò senso peggiorativo quando fu applicato dagli stessi padri ad alcuni eretici che ebbero notevole rilievo tra il secondo e il quarto secolo. Il primo a designarli così fu Sant'Ireneo, che vide la loro origine nella eresia di Simone il Samaritano, di cui si parla negli Atti degli Apostoli al capitolo ottavo, e disse che i suoi seguaci si propagarono ad Alessandria, in Asia Minore e a Roma, dando luogo a una moltitudine di gnostici che spuntano dal suolo come funghi. Da loro, continua Sant'Ireneo, derivavano i Valentiniani, che erano quelli che lui combatté direttamente. Spiega tale abbondanza e diversità di sette dicendo che la maggioranza dei loro fautori, in realtà tutti, vogliono essere maestri. Vanno da una setta all'altra, passano da una dottrina all'altra, volendo essere originali ad ogni costo e insistendo nell'affermare di aver trovato da se stessi le dottrine che di fatto si sono limitati a mettere insieme. Da queste informazioni di Ireneo e di altri padri, che dovettero confrontarsi con quelle eresie, specialmente Sant'Ippolito di Roma e Sant'Epifanio di Salamina, si deduce che fu tale la quantità di gruppuscoli, simoniani, nicolaiti, ofiti, naasseni, seziani, perati, basilidiani, carpocraziani, valentiniani, marcosiani, e di maestri Simone, Cerinto, Basilide, Carpocrate, Cerdone, Valentino, Tolomeo, Teodoto, Eracleo, Bardesano, che caddero sotto la designazione di gnostici che solo in maniera molto generica li si può raggruppare sotto un'unica denominazione. Dalle opere scoperte nei papiri ritrovati nel 1945 a Nag Hammadi, nell'Alto Egitto, circa una quarantina, si ricava la stessa impressione. Ogni opera contiene il proprio orientamento dottrinale senza avere nulla in comune con le altre. Tra tutti questi autori e scritti, quelli conosciuti meglio sono gli gnostici valentiniani, che esercitarono la maggiore influenza. Agivano all'interno della Chiesa come una belva rannicchiata, dice Sant'Ireneo. Utilizzavano le stesse sacre scritture, però le interpretavano in senso contrario. Il Dio vero, secondo loro, non era il creatore del mondo, ma era l'inconoscibile o l'abisso. Fra gli esseri del mondo celeste, eoni, distinguevano diversi Cristi. Insegnavano che la salvezza si ottiene mediante la comprensione di se stessi come scintilla divina racchiusa nella materia. Che la redenzione di Cristo consiste nell'aprire gli occhi a quella conoscenza e che solo gli uomini spirituali, pneumaticoi, sono destinati alla salvezza. Il carattere elitario della setta e il disprezzo del mondo creato definivano, fra gli altri, la mentalità di quegli eretici, i più significativi rappresentanti degli gnostici.